Passami un altro paio di cuffiette perché non si sente qua dentro, E polpette. No, le cuffiette, E polpette. Franco, le cuffiette. A carne. Ma cosa c'entra la carne? Dai, E sette e no, mezzo. Franco, dovresti darmi un altro paio di E cuffiette, polpette. ok? Domani? Anzi. Domani. E io ti riporto in comunità. Luisa? No, Luisa? no, Franco. Luisa! Chi l'ha detto che l'hashish è una droga leggera? Forse non ha mai provato a portarne in spalla un sacco da 50 kg. Mica sempre l'eroina è una droga pesante. Per esempio Garibaldi non si è mai lamentato della pesantezza di Anita. Chi l'ha detto che la religione è l'oppio dei popoli? Forse non ha mai provato a fumarsi una Bibbia. C'è un po' di confusione, c'è un po' di ibernazione. Viva la libertà! Tra la lì e tra la là. Ah, ah, ah. Congratulazioni per queste canzoncine che trattano degli argomenti biblici molto interessanti. Grazie. No, beh, insomma, biblici, non è che l'ho messo. Biblici, sì, la Bibbia, l'opio dei popoli, però anche la droga. La droga, bravo. Infatti, la Bibbia ne parla della droga. Eh? La Bibbia. La Bibbia, ti leggo un passo? Mi legga un passo. Il serpente disse Eva: la frutta fa bene, contiene le vitamine. Già, una mela al giorno leva il medico di torno. Meglio farsi le mele che farsi le pere. Ecco, capisci? Ecco. Parola di Giobbino.